Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Caro ascoltatore, fottiti. Detto questo, eccoci qua. A te non ti piace o presepe? No. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. Ma chi se ne frega? Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Cimici, calpestate senza dignità. Dai, ulula, Oscar. Ma non voglio ulula. Ma tu ti devi ritirare. Sei troppo bravo. Facciamo un avvertimento sindacale. È immorale alzarsi a quest'ora. Sono solidale a tutti quelli della redazione. Luca Sappino, Fulvio Benelli, Valerio Rocchetti, Alessandro Chiappini, Rachele Caraccio e Lorenzo Rotella. E a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare. Quanto sono belli questi paginoni, io proprio vado in orgasmo. Ti incateno con una bella tassetta. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fammi parlare! 10, 11, 12, 13, 14. Io gli voglio bene, ma ambulanza. Pronto? E magari stava facendo sesso a letto. Da 1 a 10, ma quanto minchia gliene frega! Sei perfido. Io voglio allearmi con te, pausa, brutto stronzo. Allora, alla fine, ce l'ha fatta. Curiamolo, leviamogli il metadone. Magari! Bene. Oddio mio! La risposta alla sua domanda sono io. Auguri! Bene, è un buon inizio. Reach out and touch me. Magari! Sono le 6.32, popolo dei già svegli, buongiorno, con il super meglio, il super concentrato del 2016 e noi siamo qui 24 mattino, ma del 2017 ovviamente, e sono già fuso, ma è importante raccontare che siamo il programma che cesella la contemporaneità. E allora qui al mio fianco il comandante Alberto Castelvecchi. Buongiorno e buon anno. U2. Che ci raccontano un altro eterno capodanno e noi che siamo ancora estasiati, io sono ancora estasiato di aver visto, sapete, quei cenoni conviviali, hai la Rai accesa e c'erano Albano, Romina Power, c'era Raff, c'era Patti Pravo che a un certo punto ha detto buon 1918, quasi peggio di me. E la domanda che mi sono fatto, questa rappresentazione del Capodanno, caro Alberto, era perfetta, perché l'Italia è il paese in cui si festeggia il Capodanno però di un altro secolo, del 1980, è un paese vintage, è un paese in cui Mattarella si rivolge ai ragazzi del 1999 dicendo, beh, ma insomma, quelli un secolo prima di voi sono andati in guerra, voi tocca andare a votare, vi è andata bene. Ho capito, ma sono passati 100 anni, Mattarella. 100 anni! In 100 anni cambiano le geografie, le mappe, il costume. Tutto cambia e quindi non è facile dire ragazzi del 99, vabbè, vi è andata bene. Sì, infatti, questo è stato una... Beh, diciamo, a me Mattarella è piaciuto nel complesso, nel senso che tutti dicono sonnifero, ho trovato più sonnifero, non so, appunto, Patti Bravo che cantava dal Palco di Sanremo. Grande. Per quanto Patti Bravo ha questi occhi che sembra un gatto, sono l'unica cosa rimasta giovane della sua, bello, della sua molto fisionomia. Bello, sì. Ah, quindi anche tu hai visto quel Capodanno. Se tu pensi, certo, se tu pensi alla demografia italiana, dove il 70% delle persone sono vecchie, e a quella iraniana, dove il 70% delle persone sono giovani, forse qualche cosa sul futuro del pianeta... Probabilmente questo Capodanno è stata una grandissima operazione di marketing che ci segnala un tempo in cui si farà campagna elettorale su più dentiere per tutti, più pensioni per tutti, in cui l'anziano diventerà la figura centrale e il giovane figura marginale e anche un po' degenerata. Ma infatti, perché l'ineffabile Di Maio, per esempio, quel faccino politico che piace tanto ai sessantenni e ai settantenni? Cioè, perché non ci hanno mandato qualcuno esagitato? Perché Di Maio è esattamente il candidato ideale, per esempio, te ne faccio uno come esempio, del 5 Stelle per un pubblico televisivo. Infatti Di Maio va forte in TV. La TV non è una cosa per giovani, questo sembra segnalarci il Capodanno di Rai 1. Non è che te la puoi prendere con la Rai, te la dovresti prendere prendere con la demografia, insomma. Con... Intanto leggevo da qualche parte stamattina che i nati nel 2018 vedranno probabilmente il 2101, un pianeta in cui non ci sarà più tanta diversità biologica, in cui ci sarà un riscaldamento globale significativo, ma in cui probabilmente vivremo 140 anni, grazie ai progressi della medicina. Quindi tu e io, Telese, abbiamo la possibilità, forse nel 2118... Io sono nato nel 70, arrivo. Non, guarda, i progressi della medicina ti porteranno nel 2118 da Radio 24.000 a dare il buon anno a tutti. Ci sarà Berlusconi, non ci saremo noi, mio caro. Allora iniziamo per consolarci con il super fritto misto e ritorniamo. Un bacio grande, buon anno 1918, che porta bene. Era appunto il countdown di Amadeus ed eccolo il discorso di Mattarella. Nell'anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande Guerra. In questi mesi di un secolo fa, i diciottenni di allora vennero mandati in guerra nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto. Siamo di fronte oggi difficoltà che vanno tenute sempre ben presenti, ma non dobbiamo smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato. La pace, la libertà, la democrazia, i diritti non sono condizioni scontate né acquisite una volta per tutte. Vanno difese con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle. Devo dire che è un bel discorso, perché se non altro ci ha dato da pensare, no? Ci ha messo questa leva dentro, poi pronunciato con questo stile che ormai è lo stile Mattarella. Sì. È come un cablogramma che ti arriva, sì, dalle istituzioni. Napolitano, in maniera abbastanza leninista, mi ha consentito dire. Napolitano leggeva da dei fogli, quindi va quest'area ancora da Politburo, no? Invece Mattarella, non so se hai notato che è il gobbo elettronico. E sì, è ta. Che fa una luce bluastro biancastra. Per cui non sembra che il gobbo elettronico legga Mattarella, cioè non che Mattarella legge il gobbo, è il gobbo che legge Mattarella. No, qua siamo a livelli altissimi. Per cui... Salvini commenta Mattarella. La Costituzione a cui si richiamava il presidente Mattarella, tradita dalla sinistra. Sovranità popolare, dove? Hanno svenduto all'Europa tutto quello che potevano svendere: la moneta, l'agricoltura, la pesca, il commercio, i confini. I confini, il presidente Mattarella ricordava la prima guerra mondiale con i nostri nonni e i nostri bisnonni che combatterono e morirono per difendere i confini, per difendere le comunità e le famiglie dallo straniero. Oggi il clandestino lo andiamo a prendere direttamente a casa e lo mettiamo in albergo. Bella anche la prima guerra mondiale riletta da Salvini, le comunità difese dallo straniero. Cioè una guerra etnica, fu invece una guerra geopolitica, di imperi centrali. Di linea del Piave, di non sì. Passi lo straniero rivendicato da Salvini. O Salvini è veramente sempre più di lotta e di governo. Sì. Da un lato dice che in fondo bisogna rimanere nell'euro. E dall'altro non si rende conto che se rimaniamo nell'euro è forse proprio di confini dobbiamo parlare, ma di abolirli. Di pesca dobbiamo parlare, ma di gestirla in comune, cioè di gestirlo sto benedetto spazio fatto tra Ventotene e i trattati di Lisbona. Questi fanno tutti gli europeisti con... a parole, ma di europei. Questo lo diceva Giulio Andreotti. Sì. Giulio Andreotti diceva: io di europeisti ne ho conosciuti tanti, ma di europei nessuno. Meraviglioso. Di Maio, di fine anno. Speriamo che sia l'anno in cui ci liberiamo dei partiti che ci hanno ridotto in queste condizioni e che sia un anno in cui lo Stato ricomincia a investire in famiglia, in imprese e in qualità della vita degli italiani. 800240024 per i vostri messaggi di navigazione. Ma hai seguito tutto il caso Di Maio va in piazza a Roma, non ci va? Era uscito un meme addirittura, sono quei, come dire, quelle foto con una didascalia che davano l'appuntamento di Di Maio in piazza. Esplosa la polemica, poi alla fine ha detto: no, vado in piazza a brindare, non salgo sul palco a Roma. Sì, questo è curioso perché in questo momento c'è una sorta di appeasement Di Maio Raggi, cioè la Raggi è stata blindata, no, in qualche modo dal vertice 5 Stelle e sembra passata indenne perfino alle sventure natalizie di Spelacchio, per cui c'era un Fantastico. Po' il bisogno di stringersi alla Raggi. Io però ho sorvegliato il cassonetto, non c'era accumulo, lo dico per i non romani, il diesel al distributore di via Prenestina, Tamoi, costa 1,37 e però non c'erano rifiuti al cassonetto. Ma tu sai che tutte le volte che dici così ti esponi al fatto che poi via mail, via tutto, ti arrivano centinaia di foto di cassonetti invece devastati dalla monnezza, dal gabbiano, dal sorcio. Ma questo lo sopporto, mi fa soffrire che qualcuno trova il diesel a 1,20, 1,22 in questi distributori del nord che stanno in mezzo a valichi montani, in mezzo a posti strani e ci possono arrivare solo loro. E Gentiloni, non abbiamo tirato a campare. Non abbiamo tirato a campare. Il mio governo, come sapete, ne abbiamo parlato un anno fa, era quasi impossibile immaginare una seconda conferenza stampa un anno dopo. Era nato un po' più di un anno fa in circostanze molto difficili, la sconfitta del referendum, le dimissioni del presidente Renzi. Non abbiamo tirato a campare. Allora, facciamo un'analisi del minimalismo gentiloniano, no? Ermo Viola, soprannome di cui vado orgoglioso perché ha questa lentezza, questa indolenza un po' romana. Cioè lui dice, oh, ma eravamo partiti così male, non pensavo neanche di fare la seconda conferenza stampa. Vedi, no? Anche con quelle battute in romanesco, che un po' finte. Non dimentichiamo che la prima battuta... È piaciuto però, a me questa idea di dire, oh, siamo partiti da schifo, tutto sommato qualcosa ce ho poteva, fatto. Ce poteva andare peggio, ce poteva andare. No, obiettivamente il conte Silveri Gentiloni, la primissima conferenza stampa che fece, diede subito, in pochi la notarono, un'impronta di anti-renzianismo alla sua presidenza del Consiglio, dicendo non fatemi fare promesse che non potrò mantenere, cioè smorzò subito quello che fu chiamato l'annuncismo renziano. E di anche fatto, oggi, anche nel discorso di fine anno ha fatto la sua sottolineatura, no? E proprio per questo appunto parliamo delle cose una volta che le abbiamo fatte. Io devo dire che la bordata di nomine che si è mossa tra Ignazio Visco, la rinomina del comandante Carabinieri, del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di una buona parte dei vertici dei servizi segreti, compresa la cyber intelligence affidata finalmente al professor Baldoni, insomma Gentiloni dimostra che uno che non si fa mettere tanto i piedi in testa. Quando lui prese la presidenza del Consiglio, io feci un'intervista con Al Jazeera e mi dissero, ah, il governo Gentiloni è accusato di essere un governo fotocopia. Io dissi, tenete presente che Gentiloni ha la caratteristica dei conti antichi, cioè mano di acciaio in guanto di velluto. E io credo, certo, credo questo, che l'abbia dimostrato. Sicuramente. Insomma. Allora, la risposta sulla commissione banchi in cui qualcuno ha letto una stoccata a Renzi è abbastanza esplicita. Lei ha ricordato l'operato del suo governo per salvare alcune banche, ma io volevo chiederle una sua valutazione sull'operato dalla commissione banche e poi conferma di essere stato lei ad insistere perché la Maria Elena Boschi restasse al governo. Sul secondo punto la risposta è sì, sulla commissione banche io aspetto con rispetto le conclusioni e vi devo dire che con un certo sollievo ho anche registrato la fine delle audizioni della medesima. Cioè, come dire, era meglio non farla. Certo, anche perché Berlusconi, la partita alt, alt! Berlusconi spiega le migrazioni con la televisione. Numero uno, numero uno! Al mondo ci sono 6 miliardi di persone che vivono nella povertà. Una volta le persone che vivevano nella povertà non sapevano nulla di come si vive nei paesi del benessere e quindi non avevano spinte a spostarsi, lasciare la loro patria e venire qui. Adesso anche nelle più sperdute tribù dell'Africa esistono dei grandi schermi televisivi con delle batterie, anche se non arriva la corrente, alla sera tutto il villaggio si raduna a vedere la televisione che si illustra la nostra vita. E il villaggio globale nella versione, diciamo, Mediaset berlusconiana. Ma guarda no, che... ma è bella questa immagine, sembra lo spot della TIM, no? Le tribù dell'Africa con le lance, le cose, ci stanno i grandi certo, schermi. Certo, mentre fanno il bunga bunga loro, appunto, quello, ah, quello ah, diciamo... No, no, battuta! Ma perché non ti sembra razzista questa cosa, perché sono questi dell'Africa che scoprono la televisione adesso? Beh, di fatto però, se tu ci pensi, già 30 anni fa... E se, guardano la D'Urso, se chiaro, tu sorvolavi, vengono perché vedono la D'Urso. Beh certo, se tu sorvolavi 30 anni fa gli slums di Bombay, atterrando a Bombay, che attualmente si chiama Mumbai, o sorvolavi, che ne so, Soweto in Sudafrica, o insomma le favelas, sopra i tetti di lamiera roventi delle favelas di mezzo mondo c'erano già i satellite dishes, cioè le antenne del satellite. Le padelle. Non ha del tutto torto Berlusconi, se no che magari negli ultimi 20 anni io gli ricorderei che è nata anche internet, i telefonini, Instagram, insomma YouTube. Siamo passati dagli U2 a YouTube come tipo di percezione. Per cui... Allora un'altra perla, Grillo contro gli anziani. Qui sono tutti pezzaioli, mettono pezze da una parte e dall'altra, ma manca la visione di 30-40 anni dei nostri figli e dei nostri nipoti. Abbiamo questa voglia di eternità, abbiamo questo virus dell'eternità che non vuol più morire nessuno, e abbiamo questa, coltiviamo questa agonia fino a 120 anni. Ma io non lo so se questo, se il mondo deve andare verso gli anziani, quando metà mondo oggi è sotto i 25 anni. Noi abbiamo un'età media, l'aspettativa di vita aumenta, ma l'aspettativa di vita sana diminuisce. Questa è interessante, questa distinzione, vedi, era uno dei discorsi in cui Grillo, questo discorso di Cavallo, è tornato alla sua prospettiva visionaria, futurologica, ti convince? Mi sembra un po' di ricordare i primi video di Casaleggio esatto, padre, esatto, dico, esatto, come esatto. Si vivrà nel 2030, quando sì, sì, sì. Ci sarà stata una guerra atomica, sì. Che avremo vinto contro i cinesi, ma avremo tre orecchie verdi, saremo come grandi topi senza capelli, eccetera, eccetera. Ma è dell'aspettativa di vita di Grillo che vogliamo dire, insomma, che mi sembra molto vitale, uno dei vecchietti più potenti, o forse sembra più anziano perché è molto peloso, io lo dico da pelato, perché ha tutti quei peli bianchi intorno alla barba, alla testa. Quanti anni ha Grillo esattamente? Beh, 70 ce li ha, no? E allora appunto, ormai la legge Fornero dovrebbe avere condannato anche lui alla pensione, invece mi sembra che abbia voglia di progettare un ventennio della politica italiana. Continua a dare lampi, sono le 6:46 minuti e ci fermiamo per qualche secondo e torniamo con una minestra densissima fra pochi istanti. Strade. Mattino. I già svegli. Ogni mattina le notizie attese te le spiattella qui Luca Telese. Arriva dopo un po' Oscar Giannino, che è nato come me proprio a Torino. Ciao, ne! Ho cominciato a svegliarmi molto presto per riprendermi quel tempo che la malattia ha rubato mia madre. Alle 6:30 ci sei tu, Luca Telese. Una carezza al risveglio. Tu sei la tenerezza che Giuseppe Cruciani non avrà mai. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata, e per rendere il loro mattino un po' più gradevole prima che loro vanno a lavorare. Ma io purtroppo comincio prima di loro. Sono già sveglia presto perché mio marito mi porta il caffè a letto alle 6:30 e accendiamo la radio. Questo dopo 47 anni di matrimonio. Allora, stamattina ero già sveglia perché il mio partner fa i turni e perché penso e spero di essere rimasta incinta stanotte. Belle queste voci, bellissime. 02 30 22 44 92 e ricominciamo con un nuovo anno di già svegli, di ansie, di veglie, di emozioni. Questo è il racconto dell'Italia attraverso la segreteria di 24 Mattino. Ritornano gli U2 e Grillo, stavamo dicendo. Vai! Andate a fanculo! Allora, 70 anni, e i 5 Stelle sono il partito più giovane della politica dal punto di vista elettorale, sì. Però anche loro hanno un leader anta. Hanno un garanta. È nel senso che, sì, Grillo rappresenta anche la memoria, no? Di un'epoca televisiva, di un'epoca anticraxiana, ti ricordi, no? I suoi strali contro i socialisti, contro la partitocrazia. Certo. E in qualche modo da lì non si è interrotto il suo fil rouge. E sì, io mi chiedo che lo cosa... Lo sai che iniziò facendo l'imitazione a casa, faceva il commesso viaggiatore, buttò la valigia fuori dalla finestra con il campionario e decise no, farò spettacolo, andò in giro per Milano, Roma e si trovò, fu scoperto da Pippo Baudo. E poi a un certo punto pare che rifiutò un'offerta di Bersani. Questo, davvero? Cioè, sì, che ci fu una sorta di tentativo di cooptarlo in politica da Bersani, quando Bersani era più potente del Bersani di adesso, era un Bersani più giovane anche lui. E no, non ci fu il patto tra Grillo e la sinistra e ne abbiamo visto le conseguenze. Chissà che non ci sia dopo, perché a quanto pare Di Maio per statuto vuole restituire la possibilità ai 5 Stelle di fare accordi di governo. Questa quella è la novità è del la 2018. Quella è la più grande rivoluzione copernicana, diciamo, della politica di oggi. Se i 5 Stelle rompono l'ultima clause, no? Come la clause 4 dei laburisti, tutto può accadere. Bonaccini contro la Raggi! Può essere che alcuni territori non riuscendo a smaltire i propri rifiuti e negando qualsiasi intervento per poterlo fare in futuro, pretendendo da un lato di non fare nulla nei loro territori e chiedere sempre ad altri di risolvere i loro problemi. Ecco, questo prima o poi bisogna che finisca in questo paese, perché davvero non è tollerabile che ci sia chi faccia campagna elettorale addirittura sul tema del ciclo dei rifiuti e poi ogni volta che c'è un problema si rivolga a qualcun altro che li risolva. Qua c'è una nemesi bellissima, perché, come dire, in alcuni casi non c'è da essere da una parte o dall'altra. Il fatto che i rifiuti di Roma alla fine finiscano nell'inceneritore del sindaco di Parma, cacciato dai 5 Stelle, Capitan Pizza, ma questo è orgasmo puro, signore. Perché si dimostra appunto che il sistema emiliano-romagnolo dall'altro e toscano, che i termovalorizzatori li ha fatti, è in grado di utilizzare i suoi termovalorizzatori, cioè i bruciamonnezza, li vogliamo chiamare così, anche per le eccedenze della monnezza raggiana. E loro dicono no, però non è puoi dire stronzo con l'inquinamento, la cosa, la puzza, il cancro, i tumori, e poi me li vieni a scaricare da me i tuoi rifiuti. Appunto. Infatti Bonaccini da un lato si è dimostrato magnanimo dicendo no, ve li prendiamo noi i rifiuti, però non si è fatto mancare, come hai sentito in questo passaggio, la polemica elettorale, cioè voi fate campagna contro i termovalorizzatori, però poi le puzze ve le dobbiamo bruciare noi a casa nostra. E obiettivamente questo tema dei rifiuti bisognerà che prima o poi la Raggi e quello che sarà il prossimo presidente della Regione Lazio, forse di nuovo Zingaretti, dovranno affrontarlo, perché insomma non è che possiamo continuare a esportare rifiuti. Ecco, l'Austria con le sue elezioni neoconservatrici, neofasce, ha vietato il transito alla nostra monnezza oltre Alpe, e quindi a quanto pare l'Austria ci dice non vogliamo i migranti, non volete neanche vostra monnezza, e quindi adesso il problema della monnezza italica, soprattutto romana, diventa un problema tutto nostro. Fulvio e Valerio sanno che ci deve sta o Papa. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza ai fratelli copti ortodossi di Egitto, colpite 2 giorni fa da 2 attentati a una chiesa e a un negozio nella periferia del Cairo. Il Signore accolga le anime dei defunti, sostenga i feriti, i familiari e l'intera comunità, e converta il cuore dei violenti. L'ultimo leader che ha una visione globale, e qui mi colpiva questo fatto, è il negozio della periferia del Cairo col copto vittima del terrorismo, e il Papa lo sa e lo dice. E il Papa lo sa, il Papa sa anche che in un paese di 90 milioni di persone, come l'Egitto, 30 milioni sono cristiani, quindi sa di parlare a un bacino ampio, no? Per quanto i copti siano di un ramo diverso. Una minoranza di 30 milioni. Una minoranza che è metà della popolazione italiana. E il Papa ha anche parlato dal leader globale, se l'hai sentito nel messaggio di auguri di Natale, delle ingiustizie del modello economico turbocapitalista, ha detto un modello che produce diseguaglianza e no, sfruttamento. Cioè il Papa ha riaffermato quella che dagli anni 60 è la dottrina economica della Chiesa, che è una delle poche dottrine economiche globali, globaliste. Poi si può essere d'accordo o no col populismo, però di fatto la Chiesa ha un pensiero globale. Il servizio diplomatico perché vaticano, perché dici ha che un è pensiero. Una delle poche dottrine globali? Esiste Amazon, esiste, beh, ma quelle non Facebook. Sono dottrine, quelle sono appunto le pratiche di sfruttamento contro cui se la prende il Papa, mentre invece la dottrina sociale della Chiesa è una dottrina che è abbastanza radicata. Hanno cambiato il mondo. Kim Jong su un missile nucleare. 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 미국 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며. Lo vogliamo far sentire perché ha questa bella vocina gutturale, no? Che uno non direbbe, e ha dato anche il nome al razzo di fine anno, no? Lo sapevi? Io quello, mi ricordo il super detto, bottone di Napoli. Io ho detto, ho qui il bottone sulla mia scrivania, l'ho pure chiamato per nome, non so, come si dice in coreano del nord, appunto. Non lo sapevo. Il bottone sulla mia scrivania, il nome del razzo, non lo so, ma come si chiama? Ping pong. È solo propaganda o c'è da avere paura? E le sanzioni dei cinesi sono vere? No, c'è da avere paura sicuramente, perché quando parliamo di missili intercontinentali parliamo di missili che viaggiano a più di 10.000 km all'ora e che non si possono per il momento fermare con i sistemi antimissilistici conosciuti con certezza. Cioè se qualcuno di questi missili viene lanciato, gli stessi americani si preoccupano. Parliamo di propaganda perché si tratta di propaganda per il momento difensiva, cioè sostanzialmente lui ha paura di essere attaccato e per questo grida così tanto. Ma il dato interessante del discorso di Kim Jong-un è il fatto che è stato durissimo con gli Stati Uniti, ma ha blandito la Corea del Sud, ha addirittura fatto gli auguri alla Corea del Sud per le prossime Olimpiadi, cioè sostanzialmente ha detto spero che vadano bene le Olimpiadi di Seoul, cioè si è rivolto al vicino del Sud in maniera quasi gentile. Timeo Danaos et dona ferentes. Sono paura dei greci anche quando portano dei doni. Certo. E di fatto io, se fossi, non starei tanto sereno se fossi nel neo presidente coreano del Sud. Verdone, il maestro Verdone, anche lui ha fatto gli auguri di fine anno. Cult, cult. Giulia, comprate il panettone? Sì, papà. L'hai preso con l'uvetta? Sì, papà. L'hai comprato da Gino o da Marcello? Da Gino? No, la prossima volta compro da Marcello, che è molto più tenero. Il pandoro me l'hai preso? Sì, papà. L'hai preso con lo zucchero vellutato? Sì, papà. Il torrone l'hai preso? Sì, papà. Mi hai preso quello siciliano? Ovviamente. Senti, mi hai preso il bicarbonato di sodio? E la citrosolina. Bravissima. Senti, per andare al bagno domani mi hai preso la vecchia Eparema? Ovviamente. Bravissima, perché sennò non andiamo più al bagno. A chi non viene in mente il famoso Furio di Carlo Verdone? No? Se io parto dal casello alla tale ora e faccio benzina, ti ricordi? Tutta sì, sì, la è una figura leggendaria, cioè è la quintessenza personificata delle nevrosi che sono dentro ognuno di non noi. Non solo, ma il fatto che ci può qual stare... Qual è la tua nevrosi? Qual è la vostra nevrosi? La mia nevrosi è quella di... L'hai presa da Gino o da Marcello? Ma io mi sono accorto che, essendo un grande disordinato, però un po' sono Furio, io sono disordinatissimo, e quindi continuo a mettere in ordine compulsivamente le cose intorno a me. Mi è presa la furia di Furio anche a me recentemente, perché sennò non trovo più gli oggetti. Sembra una sorta di necessità, no? Cioè, sai, se è un'erezione nevrotica, cioè tu sai che ci stanno le bombe atomiche in Corea, la rivoluzione per strada in Iran, che ci sta la povertà endemica in mezza Africa è distrutta dalla fame e dalle migrazioni, e tu continui a mettere in ordine i tuoi oggettini, a preoccuparti del bicarbonato e di quanto è morbido. Lo zucchero a velo, posso dirlo, siamo in fase, continui a farti i cazzi tuoi a casa tua mentre il pianeta esplode. E questo è un po' il senso metapolitico della nevrosi verdoniana. Il mondo, è vero. Allora, però, siccome siamo anche educativi a 24 mattino, anche educativi, il professor Berrino interviene sui riti del risveglio, molto importante per tutti noi. Sarebbe interessante che quando ci alziamo al mattino di esprimere un ringraziamento per questa bellissima giornata che ci sta aspettando. Andiamo in cucina a preparare il caffè, ma andiamoci non strascicando i piedi, no? Ma mettendo la vestaglia più bella che abbiamo, come se fossimo dei principi, insomma. No? È una cosa importantissima preparare il caffè. Allora, ha studiato il professor Berrino per 40 anni la prevenzione del tumore e sostiene che anche il modo di entrare con la vestaglia e senza strascicare i piedi è prevenzione. Ma tu sai che anche in molte tendenze del cattolicesimo contemporaneo, l'Opus Dei, per esempio, dice che quando tu ti svegli la mattina devi essere appunto preciso, mettere giù i piedi, la prima cosa che fai devi mettere i piedi a terra con una sorta di ringraziamento, l'idea di ringraziare perché sei vivo, che di tonificarti, insomma, è importante per il benessere. Ringraziate di essere vivi, Giornale Radio, ci sentiamo fra poco, ciao.